tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. A questo di strano il campionato spalmato, che il sabato sera è la giornata del Napoli, poi la domenica pomeriggio diventa quella del Catania e di alcune altre squadre, la sera ridiventa la giornata, anzi il campionato dell'Inter. E se questo è strano, si arriva al paradossale, riguardo al posticipo, quale? Ma cioè che in un campionato così compatto, così raccolto, con la bellezza di 9 squadre raggruppate tra 12 e 14 punti, viene fuori una partita così incredibilmente sbilanciata come quella dell'Olimpico, con che finisce con 4 gol di scarto. Io personalmente ho perso una scommessa robusta perché avevo puntato su 3, ma finisce con 4 gol di scarto solo perché l'Inter sul 4-0 a mezz'ora dalla fine responsabilmente si è fermata, responsabilmente quanto palesemente si è fermata. E allora, come sempre in questi casi abbastanza rari per la verità, la domanda è troppo forte una squadra o è troppo debole l'altra? A parer mio un po' dell'uno e un po' dell'altro. Poi andiamo avanti con gli spunti di giornata, che sono tantissimi. I numeri del Catania impressionanti, a cominciare da quello della difesa meno battuta del campionato, a cominciare da un secondo posto in classifica. Non accadeva, anzi non era mai accaduto nella storia, il nuovo record del Catania in Serie A, perché 14 punti, considerando pure che nel 60-61, in una stagione molto positiva, non c'erano i 3 punti per vittoria, ma insomma non sarebbe stato questo in ogni caso il rendimento. È il nuovo primato assoluto. Bizzarri, portiere, tra l'altro uno dei migliori del campionato certamente, e lì si vede, credo, la mano di Zeng in maniera particolare, è imbattuto in casa da 460 minuti. Poi c'è, vogliamo restare a Catania, 14 punti in classifica, e sono esattamente i punti della Juventus e del Torino sommati insieme. Pensate un po' che bel derby si prospetta per Torino sabato sera, dopo tra l'altro che domani sera la Juve avrà smaltito, vedremo in che modo, la pratica Real Madrid. E poi tanti e tanti altri argomenti che svilupperemo insieme come ogni lunedì. Cominciamo dal commento di Mourinho sul risultato di ieri sera. Oggi abbiamo giocato veramente molto bene, penso che la squadra è molto intelligente, i giocatori molto concentrati, una interpretazione molto buona del nostro lavoro, e sono veramente contento ovviamente per i 3 punti, per un risultato che 4-0, un derby, un gioco così, un significato speciale, ma sono anche contento per il gioco della squadra. Dall'altra parte uno Spalletti sotto shock come tutto l'ambiente. D'altra parte credo che il silenzio dell'Olimpico è stato a lungo impressionante, poi è stato molto bello, addirittura sembrava uno stadio inglese ad un certo punto, quando proprio sullo 0-4, in un momento di palese sconforto in campo e fuori, una parte della tifoseria romanista ha preso a incoraggiare, a incitare la squadra, cominciando ovviamente da Totti, che certamente era il meno colpevole di quella situazione. È stata, ripeto, una cosa di stampo britannico, da noi non accade spesso. La voce di Spalletti a commento del risultato. Loro sono una squadra che in questo momento stanno attraversando sicuramente un momento bello, perché si vede che sono carichi, che sono determinati, una squadra che lotta, una squadra che corre, ha un calcio moderno dove gli si vede poi questa facilità di rientrare sempre 9 sotto palla, 3 centrocampisti che riconquistano e hanno qualità tutte e tre, sono sempre a disposizione della squadra in qualsiasi ribaltamento di fronte, in qualsiasi ripiegamento poi che vengono costretti dalla squadra avversaria. Spalletti ha anche, come questa era un'analisi del gioco dell'Inter, credo che l'Inter ieri sera abbia dato grande prova di sé. Poi si può discutere su qualche scelta iniziale. Io resto convinto che, per come era combinata la difesa della Roma, che in questo momento credo non abbia eguali in Serie A, e forse non soltanto in Serie A, e ovviamente in negativo, perlomeno nella formazione schierata ieri sera, causa anche le squalifiche, insomma, per come era combinata ho la sensazione, e per la facilità con cui per esempio Maicon ad un certo punto ha fatto 80 metri di campo e sembravano 8.000 senza trovare opposizione, poi mettendo chissà perché la palla a lato, ho avuto la sensazione che con per esempio Adriano e Balotelli al posto di Quaresma e Obinna, dopo una ventina di minuti ci sarebbe stato il lancio dell'asciugamano, il getto della spugna, come si diceva una volta, nel pugilato. Eppure Spalletti, se non sbaglio, parla di risultato bugiardo. Sentiamo questo frammento. Il risultato mi sembra bugiardo, nel senso che poi un paio di disattenzioni, un paio di tiri fuori o situazioni come ci sono capitate a noi, loro sono riuscite poi a concretizzarle, noi invece no. Mi sembra un po' esagerato, ecco, per quello che si è visto in campo. Ma è una questione di opinioni, forse esagerato per quello che si è visto in campo nel primo tempo, ma nel primo tempo, per l'appunto, secondo me, avendo l'Inter nove giocatori che insomma, di categoria superiore in campo e due ali che si tenevano largo il gioco, ma insomma davano un contributo relativo, per questo mi pare che la Roma sia rimasta in partita effettivamente fino alla fine del tempo, ma dopo quei tre gol di inizio ripresa, insomma, se l'Inter non si dà una calmata poteva anche finire in maniera anche più severa. Comunque la Fiorentina zitta zitta, scrive Alessandro, è a tre punti dalla vetta, finora ha giocato senza Mutu, e vedendo poi come giocano le altre, beh, insomma, se ha notato come gioca l'Inter ieri sera, ci andrei pianino. È vero che è a tre punti dalla vetta, ed è vero proprio che questo è il segnale dell'equilibrio di questa stagione, in cui può anche darsi che le sorprese, al di là di questa voce grossa, anzi grossissima, dell'Inter di ieri sera, può anche non essere detto che le sorprese siano finite. Perché? Ma perché Fiorentina e Milan, che erano partite molto male, il Milan soprattutto, sono già rientrati in gruppo effettivamente, e quindi qualcosa può succedere. Enzo da Taranto mi domanda cosa penso da Maicon. Beh, insomma, posso soltanto ripetere che è un giocatore di veramente di categoria superiore. Non ricordo negli ultimi tempi, ma tempi lunghi non ricordo nel mondo, non in Italia, un esterno destro di questo valore offensivo. Poi sulla fase difensiva si può ancora discutere, ma è anche vero che questo tipo di terzini, si diceva una volta, d'attacco, di esterni, come si dice oggi, hanno in ogni caso bisogno di un minimo di protezione davanti o di copertura quando si sganciano, anche perché quando si sganciano diventano più forti di tanti attaccanti. Per esempio lo si è visto ieri sera, dei due che stavano davanti come posizione a Maicon. Tra poco cominciamo con i vostri interventi. Volevo ancora sentire una voce, che è quella di Zenga. Perché? Ma perché mi sembra un minimo e sacrosanto omaggio al lavoro che Zenga ha fatto fin qui a Catania, nel finale della stagione scorsa, ma soprattutto all'inizio di questa. Non per fare il falso modesto, io lavoro con tutto uno staff che mi dà una grandissima mano. Poi i giocatori vanno in campo e sono loro che interpretano e fanno le cose come devono essere fatti. Ripeto, sono felicissimo, sono contento, e la dedica è tutta per questa città meravigliosa, per questo pubblico che è sempre fantastico con noi, e quindi noi stiamo solo cercando di arrivare il prima possibile a 40 punti. Prima ci arriviamo e prima ci rilassiamo. Noi abbiamo 25 giocatori di rosa. Adesso tra un po' rientrerà anche Spinesi. Se stanno bene tutti sarà un grande problema trovare le motivazioni per mandarne in tribuna 7, perché faccio un esempio: oggi Stovini in panchina, per esempio Dica, che non ha ancora espresso il suo potenziale, Jama che entra e che fa le cose che deve fare, quindi mi complico la vita da solo, però sono contento così. Vabbè, due ascoltatori già collegati, dalla provincia di Brescia e da Lecco, preceduti da un messaggio, no, da tanti messaggi, che discorso, ma mi incuriosisce questo. Giancarlo da Varese dice: forse oggi c'è qualcosa da dire sugli arbitraggi. Giancarlo, non so in che senso lo intenda, secondo me c'è da continuare a dire che gli arbitraggi sono mediamente da buoni a ottimi. Io credo ieri di aver visto solo nella giornata complessiva due errori secondo me abbastanza gravi: la mancata espulsione di Grigera la sera di Napoli-Juve per un fallaccio, quando si va con quella violenza direttamente sulle gambe secondo me si deve andare fuori, e ripetuto ieri da Jan Kulowski a San Siro su Cassano, con questa differenza non da poco indubbiamente che la mancata espulsione di Grigera non ha inciso sul risultato, quella di la mancata espulsione di Jan Kulowski su Cassano sì, perché evidentemente in 10 sarebbe rimasta sarebbe rimasto il Milan e non la Sampdoria, come è accaduto dopo, al di là poi delle valutazioni sul rigore che ci stanno o non ci stanno, al di là di un'espulsione che indubbiamente è stata severa, ma che probabilmente a stretti termini di regolamento, essendo già giocatore ammonito, ci può anche stare. Oscar dalla provincia di Brescia, allora, buongiorno. Grazie, Garanzini, buona giornata. A lei. Mi scusi leggermente la mia ironia, per se non ridiamo un po', dovremmo sempre piangere. Dunque, questa mattina ascoltando la radio nazionale, c'è stato il presidente del Napoli che ha detto, no, che adesso le squadre sono molto livellate per l'effetto Moggi, che non c'è più Moggi che manipola di qua, manipola di là. Può darsi che sia vero, come può darsi che non sia vero, però qualcosa è successo, che gli arbitri sono più tranquilli, più sereni, possono sbagliare, che sono umani, però c'è qualcosa veramente di vero. Poi quando sento parlare che dei giocatori che sono riserve, che non sono Panucci, non ne sono Maxess, insomma, quel giocatore che ha giocato nella Roma, chi è? Prende 400.000 euro all'anno, io devo vivere tre vite per prendere quei soldi lì, mi sembra un po'. Quando gioca male Panucci che non è riserva, o gioca male Maxess che non è riserva, cosa dicono ancora? Ma Oscar, non si tratta, cioè, vabbè, se vogliamo mettere sui quattrini che devono obbligare a rendere al massimo, allora parliamo anche degli stipendi dei grandi manager, no? e pensiamo a come, parlo di economia mondiale, e pensiamo a come è ridotta l'economia mondiale. Penso che se vogliamo fare una scala di valori, allora cominciamo da lì, come tra l'altro è di moda in questi periodi. No, io credo che, insomma, parliamo di capacità e facciamo per esempio un mente locale sull'episodio chiave della partita di ieri. È ovvio che di ieri sera, intendo, è ovvio che se la Roma incontra l'Inter e non ha Maxess, già ha una difesa non esattamente impenetrabile anche quando è schierata al gran completo. Senza Maxess e senza Panucci è ovvio che questa difesa è più debole. Cosa provano a fare? Provano a fare il fuorigioco e provano a farlo alto. Benissimo. Al quarto minuto consentire a Ibrahimovic di partire con 30 metri vuoti da una parte e 30 metri vuoti dall'altra significa essere, a parer mio, dilettanti allo sbaraglio. L'errore materiale lo fa Sissigno in quella fase, che secondo me dei quattro probabilmente è più scarso di tutti, ma in assoluto, perché è quello che tiene in gioco Ibrahimovic. Ma al di là di quello, supponiamo che sia brava l'Inter a far partire questa azione di contropiede, che quindi sia superiori i meriti dell'Inter anziché dei meriti della Roma. Guardi che l'assist non l'ha messo non so, Ronaldinho, no, non l'ha messo Kakà, non l'ha messo Raul, non l'ha messo, no, è stato un rilancio di Cordoba, una puntata di Cordoba in avanti. Se su una puntata in avanti a seguire di un difensore la difesa avversaria si fa cogliere impreparata lasciando campo libero a uno che si chiama Ibrahimovic, è inutile che cominci a giocare, a parer mio. A tempo di sport. Mi è andata bene, scrive Giancarlo da Varese, perché ho interpretato correttamente il messaggio suo a proposito degli arbitri. Va bene, però non è che potete farmi questi test, perché può darsi che ogni tanto ci azzecchi e ogni tanto no. Da Lecco ha chiamato Massimo, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Innanzitutto complimenti a tutta la mia stima per i suoi interventi, è un esercizio da trovare di questi tempi. La mia domanda è riferita al Toro. Pronto? Sì. Sì, ok. La mia domanda è riferita al Toro, dicevo, è un momento nel quale non si riesce veramente a capire da che parte si stia andando, in questo senso. Ieri conciliavolo di due ore e mezza negli spogliatoi tra Cairo e De Biasi. Io mi riferisco alle frasi dette da Pulici una decina di giorni fa. Per noi del Toro, non a caso, lui è un riferimento. Ha espresso ciò che noi sentiamo. Smarrimento nella società, perché a nostro modo di vedere, a mio, non voglio parlare al plurale, personalmente non c'è progetto. Non c'è progetto nelle persone, non c'è riferimento nel vivaio. Si faceva riferimento a Zingonia. Bene, io abito vicino Bergamo e qualche volta per la passione che mi lega al calcio una capatina ce la faccio. Beh, forse le fondamenta dell'Atalanta sono lì, dell'Udinese in una rete di osservatori straordinaria e nel Napoli nell'idea proprio di un progetto che punta in maniera fondante sui giovani. Ieri il telecronista Sky diceva che al Toro manca una lira per fare un milione. Penso che sia la definizione più esatta per questo momento. È perché sembra di avere tantissimo, perché abbiamo comunque un patrimonio che non avevamo negli anni scorsi, ma signori, se non la si caccia dentro si soffre. E De Biasi è a questo punto, ahimè, perché ha tutta la mia considerazione, uomo giusto al posto giusto, a rischio. Il futuro può essere Camorese? Grazie, l'ascolto al telefono. Massimo, quale possa essere il futuro non lo so. Stamattina ho visto che c'è ho letto un'indiscrezione secondo cui sarebbe stato contattato niente meno che Donadoni. Secondo un'altra indiscrezione di altra fonte, Donadoni sarebbe stato contattato anche dalla Juventus, quindi è carino questo derby, peraltro molto ma molto presunto, che insomma chiama in causa addirittura l'ex CT della nazionale. Il discorso di fondo che fa lei, cioè sulla mancanza di un progetto, soprattutto pensando alle radici storiche del Torino, cioè alla forza del suo vivaio, è un discorso fondatissimo. Ma questo è un discorso a lungo respiro. Sul presente mi sembra che il Torino abbia dei grandi limiti, abbia anche una discreta dote di dose di sfortuna in qualche circostanza, perché ieri per esempio il gol che avrebbe sbloccato la partita di Rubin era un bellissimo sinistro fuori area che meritava il gol. Peccato che Bianchi, centravanti ciondolante mi sembra, no? In questo avvio di stagione, ciondolasse per l'appunto sulla traiettoria del pallone, abbia vanificato giustamente, perché è giusto annullarlo quel gol, la prodezza di un suo giovane compagno. Tra l'altro mi ha molto colpito perché è stato bravo il cameraman a prendere la gioia assoluta di questo ragazzo che aveva segnato il suo primo gol in Serie A, che è rientrato da poco dopo un ginocchio sfasciato in gioventù, riesce a fare questa cosa, corre come un invasato per 30 o 40 metri senza accorgersi che hanno annullato il gol. A un certo punto, nell'attimo in cui si sveglia, l'ha colto la telecamera ed era un'immagine molto amara, ma un'immagine sportiva. Ieri ce ne sono state altre, l'aria sbigottita un po' commossa di Arrigoni dopo che l'allenatore del Bologna, dopo che gli sono piombati addosso in 20 in panchina a scuoterlo e a momenti a menarlo per manifestargli la loro gioia di aver fatto gol alla Lazio. Però tutto questo, sì, era partito da Torino, tutto questo mi devono spiegare perché quel cambio con Di Loreto. Io sarà un periodo in cui, non lo so, sento l'erba crescere in qualche caso, in qualche altro no, ma di sicuro ho visto uscire Del Piero e entrare De Ceglio e ho pensato che avrebbe vinto il Napoli. Di sicuro ieri ho visto entrare Di Loreto e ho pensato che il Cagliari ce la poteva ancora fare. La mancata chiusura di Loreto, che comunque tiene in gioco acqua fresca di 3 metri mentre tutti gli altri sono saliti, sono errori che si ripetono, visto anche perché poi spiace prendersela con un giocatore, ma mi pare che qualche punto quest'anno questo difensore al Torino sia già costato. Dunque dovrebbe toccare proprio a Torino a Tommaso. Buongiorno. Buongiorno a lei. Dica Tommaso. Complimenti per la trasmissione. Sì. Senta, io volevo concentrarmi sull'altra sponda del Po. Che non è molto più allegra, No, direi proprio di anzi, siamo un derby salvezza. Sì, è vero. Però io sulla situazione societaria, non si capisce come una società gloriosa come la Juventus abbia una situazione societaria da squadra di Serie B, perché ditemi una squadra professionistica dove, vabbè, il presidente non è un manager di altissimo livello, non nel calcio, va benissimo, la Juve ha sempre dato la presidenza a uomini, diciamo, Fiat o del gruppo, però un amministratore delegato e direttore generale che continua a ostinarsi con la doppia carica, che viene dal mondo dello sport ma dal ciclismo e non di calcio, non ha dimostrato di conoscere molto, un direttore sportivo che fino a 2 anni fa era quello che, con tutto rispetto, alzava i cartelli per il cambio dalla panchina. Allora, se questa è la struttura societaria, si capisce come mai non c'è una programmazione, perché la Juve non è vero che non ha avuto i fondi, perché la Juve ha speso 70 milioni di euro sul mercato, poteva prendere 4 giocatori, non 18 qua e là di mediocri, nei ruoli in cui servivano, e avrebbe avuto una squadra più che dignitosa. Invece ci siamo messi a fare degli acquisti a casaccio, seguendo un allenatore che gli io rimpiango Deschamps veramente, perché per prendere un Lippi, un Capello, si può sacrificare una bandiera come Deschamps, ma Tommaso, per prendere Ranieri. Sì, Tommaso, non dico soltanto a lei, dico anche al suo predecessore, sono un po' tanto lunghi gli interventi di oggi. Allora, visto che siete in tanti prenotati, che premete i centralini, vi pregherei un pochino più di sintesi. Quello che dice lei è in buona parte oggettivo. Ci sono stati degli errori di mercato, l'errore simbolo da sabato mi pare diventato Knežević, no? Che può darsi che preso singolarmente non sia un errore, però poi quando scatta la Nemesi scatta e colpisce sul serio. Per Knežević era un giocatore che, se non sbaglio, aveva già preso il Torino, e mi sembra che la dimensione più o meno fosse quella, e invece la Juventus si incaponisce, scatta un'asta, litigano, glielo strappa forza eccetera. Knežević è quello dell'assist alla Vezzi l'altra sera, con un genere di rinvio e di appoggio, di giocata, la chiami come vuole, che è assolutamente improponibile. Detto questo però, capisco che il momento della Juventus sia difficile, oggettivamente lo è. Il Real domani sera può renderlo drammatico, il derby di sabato, vabbè, dato che sfugge a ogni regola, potrebbe addirittura ancora peggiorare le cose, ma insomma, al momento però non si può comunque dimenticare che non giocava Buffon in porta, che mancava un certo Camoranesi, che continua a mancare Zanetti, che Trezeguet in questo momento non può essere l'alternativa o il titolare per far coppia con Amauri. Insomma, mi sembra, se si occorre squalificarlo, mi sembra che qualche le grottaglie non c'era, mi sembra che qualche attenuante ci sia, che nonostante questo la Juventus sia rimasta in partita, anzi abbia giocato meglio del Napoli a parer mio per un'ora. Non è tutto così da buttare. Certo, andando avanti di questo passo lo sta diventando, e la cosa più inquietante è che diventa da buttare quando si sbagliano dei cambi. Il cambio sbagliato a quella maniera l'altra sera è di una cervellotticità che non si dice, ma insomma è di una opinabilità tale da far dubitare, sinceramente. Dunque, stiamo andando un po' lunghi, allora vediamo di stringere un pochino gli interventi. Jacopo Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Dica. Senta, io sono un tifoso della Fiorentina. Sì. E volevo un suo parere su Jovetic, sulla posizione, perché ieri sentivo delle trasmissioni a carattere regionale e lo vedevano bene dietro, per esempio, le punte Mutu e Gilardino. C'è chi diceva che dovrebbe fare il fantasista, quindi lasciarlo fuori dagli schemi. C'è chi dice invece che per gli schemi di Prandelli invece dovrebbe fare il suo compitino e limitarsi a quello. Qui facciamo prima, guadagniamo tempo, perché sinceramente la posizione di Jovetic non sono preparato. Mi sembra un bel giocatore, interessante, ma saperle dire esattamente quale può essere il suo ruolo per il momento non ne sono all'altezza, e me ne dispiace. È inutile che blefi e che racconti le musse, come avrebbe detto il gran Giovan Brera Fucarlo. Alvise ha chiamato da Verona, buongiorno. Alvise, buongiorno signor Granzini. Volevo dire una mia opinione su Roma-Inter. Io sono in parte d'accordo con quello che ha detto Spalletti, perché comunque la Roma paga troppo le assenze di Mexese e Panucci, e poi secondo me è in porta un portiere, senza offesa per lo stesso, che non è all'altezza. Mentre dall'altra parte c'è Julio Cesar, che fa quasi il Buffon, praticamente para tutto. E sempre nell'Inter ci sono giocatori come Ibrahimovic, che ogni palla che tocca cazzarola è un pericolo pubblico. Beh, certo, e proprio perché l'Inter è più forte, la si affronta in un'altra maniera, no? Ora, se ti mancano i difensori, capisco che sia un handicap di partenza grosso, a maggior ragione trovi delle contromisure per cui almeno rendi difficile la vita. Rendergli difficile la vita spalancando la propria metà campo dopo 4 minuti su un lancio di punta di Cordoba, ripeto, non mi sembra il modo più indicato. Cioè, io credo che la sconfitta di ieri sera della Roma, per come è iniziata in quell'azione, sia avvilente, più ancora delle proporzioni del disastro finale. Tempo di sport. se rigiochiamo la partita contro il Catania vinciamo noi 99 volte su 100. Non l'ha detto Ballardini, come potrete, non è nemmeno il caso di segnalarlo, lo ha detto Zapparini, il presidente, che ha aggiunto: devo dire che Ballardini ha commesso un errore, l'ho detto a lui questa mattina, mi sarei aspettato una ripresa, un Palermo con Miccoli, Cavani e Lanzafame per far vedere a Zenga quelle che erano le nostre ambizioni. Inserendo Tedesco al posto di Miccoli, il messaggio che è arrivato era quello di accontentarsi del pareggio e non osare di più. Non dico che sia già finita la luna di miele tra Zamparini e Ballardini, ma questa agenzia conferma ancora una volta le migliori attitudini del presidente del Palermo. Domenico, dalla provincia della Spezia, buongiorno. Sì, buondì. A proposito, volevo dire la mia opinione per quanto riguarda il livellamento tra le squadre grandi, come dire, e quelle piccine. In questo caso ci sono tanti allenatori tecnicamente molto ben preparati e capaci di affrontare la Serie A con grande piglio, a cominciare da Marino, dell'Udinese, da Zenga, del Catania, del Neri, dell'Atalanta, che con il materiale che hanno riescono a tirare fuori il meglio da tutto ciò. Mentre le squadre grosse, se non avessero i soldi, probabilmente sarebbero tutte indietro perché non avrebbero quelle qualità tecniche. Beh, è ovvio che se non avessero dei grandi giocatori avrebbero dei giocatori più scarsi e quindi con meno qualità tecniche. Fin qui è un'analisi che confina con quella di Messier della Palis, però indubbiamente un fondamento ce l'ha. C'è un'altra ragione per questo equilibrio, l'ha individuata Luca da Venezia, che non è l'unico tra l'altro a sottolinearla, ma insomma è ovvio che lui scrive: l'attuale classifica non potrebbe essere figlia dei nuovi calendari. In parte sì, cioè, in buona parte si evitavano nelle scorse stagioni, si sono sempre evitati i confronti diretti tra grandi o presunte tali nelle prime giornate, quindi le grandi toccavano alle piccoline e insomma, la classifica si delineava in maniera diversa e quest'anno sta andando invece in un altro modo. Segno che una riforma, sperando che sia definitiva, finalmente l'hanno azzeccata, nel senso dell'interesse del campionato. Da Treviso, Andrea, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Volevo fare un appunto e sentire un suo parere su Mourinho. Io credo che Mourinho, sotto l'aspetto tecnico-tattico, qua in Italia deve ancora dimostrare di essere il grande allenatore che si dice, perché se noi togliamo i due punti della partita col Catania, insomma, l'Inter lo troviamo a 14 nel gruppone e non è che amassi il campionato. Bisogna invece, credo, togliersi il cappello davanti a Mourinho per come ha compattato la squadra e lo spogliatoio, come non si era mai visto nell'era Moratti, perché vedere Ibrahimovic, Stankovic, Adriano essere quasi felici di andare in panchina, sapendo il pollaio che era l'Inter fino all'altro giorno, bisogna fare i complimenti. Dico purtroppo, da milanista dico purtroppo, questo è un grande passo che ha fatto l'Inter in questo periodo. Questo è vero, però come non, insomma, non bisogna mai precipitare le cose nel male, non precipitiamole troppo nemmeno nel bene. Cioè, attualmente Adriano è, diciamo, pure sotto punizione, nel senso che è tornato tardi come sempre gli accade, sempre gli è accaduto dal Brasile, e Mourinho l'ha lasciato fuori. Rientrerà in Coppa e per stavolta va bene così, vediamo la prossima. Cioè, ci sono i cronici, no? E le cronicità poi bisogna vedere come. Stavolta indubbiamente è stata trattata con mano felice, vediamo la prossima, quando magari sarà un po' meno facile, anche se è indubbio che se partiamo dal concetto che Adriano è un ragazzo maturo, allora la lezione di ieri, aver visto, metta lei se Quaresma o Obinna, ma direi Obinna al suo posto, e cioè la riserva della riserva e la squadra che vince 4-0 e poteva vincere più largo, se Adriano fosse un uomo di vera maturità, sarebbe una lezione di quella attaccarsi alle orecchie, come si diceva un tempo. Dato che sulla sua maturità si può discutere, va a sapere se l'ha capita con le buone o se invece serviranno un'altra volta le cattive. Tocca a Luca da Cesena, buongiorno. Buonasera. Dica. Buonasera. Le rubo solo pochi minuti per fare pochi minuti non credo, pochi secondi. Pochi secondi. Una considerazione a proposito di arbitri, di errori, di arbitrali e guardaline. Sì. E la considerazione è una considerazione che secondo me si sente troppo poco alla radio e in televisione. Gli errori degli arbitri e dei guardalini esisteranno sempre. Parliamo di calcio, bisogna che chi masseca calcio a questa cosa si rassegni, perché quando torno dallo stadio e sento delle trasmissioni intere dedicate a vivisezionare le partite dicendo al 12esimo rigore inesistente, al 18esimo non era fuori gioco per un braccio e per una gamba, sono cose che secondo me non aggiungono niente, non un guardaline, no, o meglio magari non aggiungessero niente, aggiungono veleno, aggiungono fuffa, aggiungono incultura, aggiungono ignoranza sportiva, no? È questo che intende dire. Campionati amatoriali dove l'arbitro è solo, non ci sono i guardaline, quindi immagini la difficoltà di un arbitro che credo faccia una volta da una parte, una volta dall'altra il fuorigioco, perché certo, è letteralmente impossibilità. Lo so Luca, ma ci sono, vede, dato che quest'anno stanno gli arbitri stanno andando molto ma molto meglio del previsto, ma meglio del passato. Avrà notato che ci sono i moviolisti e soprattutto gli inzigatori, non so di nuovo neanche se questa espressione sia corretta, ma pazienza, ci capiamo, i sobillatori e i moviolisti nelle trasmissioni, anche quelle subito a caldo, che sono, sembrano disoccupati, sembra che gli manchi qualcosa, e gli manca veramente qualcosa, e quindi è ovvio che questo a che cosa porta, dato che c'è una scarsa professionalità che coincide con che sconfina nell'irresponsabilità da questo punto di vista, porta ad andare a cercare ancora di più il pelo nell'uovo trovandone sempre meno. Mi fa piacere che ci siano degli ascoltatori attenti come lei che questo fenomeno lo notano proprio per quanto è abnorme. Poi a gioco lungo torneranno ad avere ragione loro, perché gli errori ci torneranno a esserci, proprio come dice lei, perché sono inevitabili e fisiologici. Però al momento è in atto una caccia all'errore che non c'è, o che più o meno non c'è, che è veramente sorprendente, per usare davvero un eufemismo stavolta. Da Lodi è in linea Angelo, buongiorno. Ah, buongiorno, no, senta, io sul discorso che avete fatto prima anche con la classifica corta, perché che mi ricordo io dopo 7 giornate, così tante squadre in 3 punti, non me la ricordo, però al di là del calendario, quello che volevo dire io è che secondo me sono le grandi che vengono a mancare, perché il Milan va bene il calendario, però il Milan ha 6 punti col Bologna, ha 6 punti col Genoa, ha 6 punti a Cagliari, la Roma ha 6 punti col Siena, la Juve ha 6 punti in casa col Palermo, quindi non credo che sia colpa del calendario, io penso che sia proprio le grandi che sono un po' più mediocri. Volevo anche il suo parere su questo. Sì, sono un po' più mediocri, un po' più in ritardo, un po' più... No, è indubbio. Sono due fenomeni quasi coincidenti, insomma. Cioè una crescita di rendimento, se non altro, di solidità di alcune squadre, diciamo più deboli o comunque più esattamente di seconda fascia, o terza in qualche caso come il Catania, e nello stesso tempo qualche stento di più da parte delle grandi o delle cosiddette grandi, che inizialmente c'è stato, insomma, su questo c'è poco da dire. Tempo di sport. La rubrica quotidiana, il ripasso di storia affidato a Nicola Filippone. Sembra ieri. 20 ottobre 1968. Olimpiadi di Città del Messico. Lo statunitense Dick Fosbury, 21 anni, non si limita a vincere l'oro nel salto in alto, fissando a 2,24 m il nuovo record olimpico. Fosbury rivoluziona la disciplina, consacrando una nuova tecnica di salto. Invece di scavalcare l'asticella di pancia, lo fa di schiena. Il trionfo olimpico determinerà una rapida diffusione del nuovo metodo, che prenderà il nome di salto Fosbury. Questa è una bella data, questo è davvero un riferimento storico non da poco. Non è possibile che l'inserimento, forse un po' forzato, di Totti abbia depotenziato le rossi aquilani, domanda Daniele da Voghera, ma direi al contrario, avrebbe dovuto rafforzarli. Si è visto anche ieri sera che un Totti al 30 o al 40% è quello che davvero manca alla Roma come squadra, come grande squadra. Certo, se poi i difensori sono quelli, Totti può fare molto poco. Forse qualcosina in più potrebbero fare Aquilani, soprattutto Aquilani e De Rossi, per proteggerla quella povera difesa, ma Totti ha dimostrato ancora una volta, anzi ha ripassato a chi se n'era scordato, perché Spalletti 3 anni fa inventò quel modulo, perché era un modulo che esaltava al massimo le caratteristiche di Totti nel gioco di prima, nel gioco a due tocchi, nel gioco in profondità, nella ricerca continua dell'assist, della girandola, e del calcio in velocità, cosa che attualmente non riesce più, ma soprattutto non è riuscita per troppo tempo, visto che non c'era lui ad attuarlo. Tocca a Flavio da Roma, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Volevo riprendere un attimo il discorso che ha finito un attimo fa, si riferiva alla partita di Roma-Inter. Io personalmente, al di là del risultato come andava a finire, dispiace, però se guardo un attimo il gioco dell'Inter e quello della Roma, mi tengo per tutta la vita quello che fa Spalletti, perché se noi andiamo a guardare il gioco dell'Inter ieri sera era palla lunga su Ibrahimovic e tirare in porta. E l'altro gioco qual era invece? Masturbazione aggravata? Dico, se guardiamo i fraseggi degli ultimi 20 minuti del primo tempo della Roma, perché il primo fraseggio che ha fatto l'Inter è stato quando è entrato Mancini a 4 minuti dalla fine. Cioè, io non ho visto un fraseggio di gioco sulle fasce, ma... o comunque una ripartenza, a parte quella di Maicon, che probabilmente lì è forse da disare ad una difesa chiaramente non la titolare. Oggettivamente, se guardo il gioco dell'Inter, fisicità e palla lunga verso Ibrahimovic. Trovo spaventoso un intervento di questo genere. Non so, quasi che come lo chiama il fraseggio, debba essere, non so, l'ordine medico-sociale, non so, oppure sia l'unico modo di giocare a calcio. Io credo che a calcio si possa giocare in tantissimi modi. Quello adottato dall'Inter ieri sera è uno dei tanti modi possibili. Certamente ha bisogno della compiacenza, direi quasi della connivenza altrui. Questo è certamente vero, ma la ricerca e la ricerca vittoriosa della porta avversaria nel minor numero possibile di secondi da quando riconquisti palla, credo che sia il sogno di qualsiasi squadra. Se invece c'è vor fraseggio ad ogni costo per fare il bel calcio, allora significa che devo dedicarmi anch'io a dei ripassi estetici. Da Milano c'è Stefano, buongiorno. Signor Garanzini, buongiorno. Dica. Guardo al calcio un po' come guarda anche lei, cioè nel senso che anche come lo si rappresenta. Io sono un abbonato di Sky e ieri sera, a prescindere dal fatto che l'Inter avrebbe comunque vinto lo stesso, ho notato come sul primo gol la moviola, la regia, sia stata davvero con il pesce in bocca. Non posso credere che con tutte le 15 o 16 telecamere che avevano non avessero un'immagine che faceva vedere bene com'era in fuorigioco Ibrahimovic. Come si è visto negli altri fuorigioco della Roma, hanno immediatamente e tempestivamente documentato. Su quella non hanno fatto vedere niente. Dall'altro devo notare che anche i suoi colleghi commentavano, mi scusi un attimo, non è che non hanno fatto vedere niente, hanno fatto vedere l'immagine che aveva, che non era perfettamente in asse. Ma che insomma, mi faccia capire però il senso dell'intervento, è una congiura? No, è semplicemente che c'è una continuità, come l'epoca di quando c'era Moggi con Sky, adesso con l'Inter, il pesce quando serve sta in bocca, questo è il concetto. E anche i commentatori, i giornalisti, si vede che sono veramente proprio entusiasti come dei tifosi, più che come dei tifosi, che hanno qualcos'altro da vincere, perché ed è per questo che naturalmente rinuncerò all'abbonamento di Sky da oggi. Non so, ma mandi un reclamo la prossima volta, però chiami direttamente l'ufficio reclami di Sky, non metta in mezzo me, che mi avvilisco a sentire queste cose, sinceramente, perché può darsi che non avessero pensare a una congiura, pensare a un quando non so, non ho parole sinceramente, facciamo che non ho parole perché ogni tanto a lunedì soprattutto capita di non aver parole e forse è la soluzione migliore, perché se poi le parole vengono magari è un guaio. Sentiamoci Carletto Ancelotti sulle difficoltà che il Milan ha avuto ieri e che poi diciamo che con un paio di episodi fortunati, e cioè la mancata espulsione di Ankulovski e poi quel rigore, si sono risolti. Le difficoltà sono che abbiamo avuto il primo tempo difficoltà nel recupero della palla e di conseguenza quando recuperi la palla molto più indietro diventi prevedibile, perché gli altri fanno in tempo a posizionarsi. Oltretutto abbiamo al primo tempo tre attaccanti abbastanza statici e che quindi davano, abbiamo dato vantaggio con questa staticità alla, diciamo, alla difesa della Sampdoria. L'ingresso di Kakà, diciamo, ha modificato un po' le cose, perché Kakà è sicuramente più mobile di Ronaldinho nella posizione di trequartista, e questo già da subito ci ha agevolato, insomma. E questa è un'analisi seria, come sempre una persona seria come Ancelotti. Ma questo chi l'ha fatto intervenire, domanda un ascoltatore, anzi lo domandano in tanti per la verità, no, l'ha fatto intervenire la libertà di espressione e il fatto che non si vede perché non debbano avere diritto di cittadinanza anche le opinioni strampalate, anche quelle che ti lasciano sinceramente senza parole per quanto sono strampalate. Ma insomma le vedovanze moggiane si esprimono in tanti, si estrinsecano in tante maniere. Davide da Verona scrive: ma se si toglie Ibra all'Inter, secondo lei sarebbe così letale come lo è stato ieri sera? Ma perché gli voleva Ibra Inter? Cioè, se ce l'hanno lo usano. Poi Davide, Ibrahimovic non è sempre così, no? Lo sappiamo, anzi spesso non riesce a essere così. Perché? Ma perché gli tolgono un minimo di spazio. Quindi non si tratta di togliere Ibra all'Inter, si tratta di trovare il modo di levare un po' di spazio a Ibrahimovic. Già non è semplice, ma almeno ci si prova, se no è inutile pensare a giocare contro l'Inter, e soprattutto è inutile pensare di fare tutti quei proclami che ho letto da parte di Spalletti prima della partita. È vero che erano un modo, almeno io credo, di dare coraggio e di farsene anche, però poi un inizio di partita così sinceramente imbarazzante. Da Siracusa ha chiamato Gianni, buongiorno. Buongiorno signor Garenzini. Niente, faccio un riferimento alla giocata di Cavani ieri di tacco, certo. E alla bella parata di Bizzarri. Se ne è parlato poco, mentre del gol di Ibrahimovic, che secondo me non era mica superiore a questa giocata, se ne è parlato tanto. Ecco, io volevo dire, in generale, non crede che la stampa enfatizzi un po' troppo la vittoria, il gol, senza andare a far vedere effettivamente i valori espressi in campo, sia dal punto di vista della vittoria? Io vedo, ci sono calciatori che basta fare un gol e beccano 7 in pagella, ma magari non hanno fatto niente tutto il resto della partita. Ecco, è così poco fare gol secondo lei, però? Non c'è solo il gol, il gol, certo, è importante, ma certo. Voglio dire, si enfatizza un po' troppo il gol e la vittoria. Ecco, ma secondo lei parliamone, visto che abbiamo ancora un minuto di programma, parliamone un attimo. Lei ha sentito ieri il commento di Ballardini in TV alla prodezza cosiddetta di Cavani? Pronto? Sì, lei ha sentito il commento del suo allenatore, cioè di l'allenatore di Cavani, Ballardini, a quella giocata? L'ha sentito? No, non l'ho sentito. Ecco, l'allenatore ha detto che Cavani si era lasciato arrivare il pallone dietro come un giocatore non dovrebbe fare, e quindi ha dovuto rimediare con quella giocata. Mettato col tacco. Certo. Si lascia scorrere il pallone, non fa quel colpo di tacco spettacolare, ma probabilmente fa gol. Beh sì, vabbè, ma non è il gol quello che... Se non è il gol quello che conta... È bello il calcio, ci sono anche appunto le parate, ci sono anche... Ma ci sono anche le foche ammaestrate in mezzo al campo, no? Ogni tanto, ma ricordo Recoba, lei se fosse un interista si divertiva di più ai tempi di Recoba e delle sue magate in mezzo, oppure si diverte di più adesso che oltre a fare qualche colpetto in mezzo vincono anche? Fanno gol e vincono. Ci si può stare. Detto questo, era un po' era per scherzare, un po' era per ripristinare. Una grande giocata d'istinto quella di Cavani, ma d'istinto per rimediare, come ha brillantemente detto il suo allenatore, a una posizione sbagliata sul lancio del compagno. Una magnifica parata di Bizzarri, un po' teatrale a uso anche dei fotografi. Bizzarri non ne ha bisogno perché è un signor portiere per conto suo. Grazie a Guido Scotti in redazione, grazie a Filippo Aureggi in regia. Appuntamento a domani.